Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. In questa puntata del quadrifoglio parliamo del recupero di un pezzo di storia a percorso ciclopedonale. Stiamo parlando infatti della storica ferrovia Treviso-Ostiglia, di cui il 20 ottobre è stato inaugurato nella zona a nord di Padova un tratto di una ventina di chilometri tra Piombino Dese e Arsego. Questa ferrovia militare, che risale ai primi decenni del Novecento, era stato proposto anni fa di trasformarla in una camionabile. In quell'occasione alcuni cittadini del territorio hanno pensato che fosse possibile una destinazione diversa di questo reperto storico ed hanno avviato un comitato, il Comitato Ostiglia Ciclabile, che è stato tra i promotori del recupero diverso e quindi a fini molto più adatti, diciamo, alla promozione del territorio, che è quello di un percorso ciclopedonale. Ne parliamo col promotore e coordinatore di questo comitato, Giuseppe Terralavoro. Ecco, volevamo sapere intanto come è nato questo comitato e anche un po' la storia di questa ferrovia. Bene, nel 2004 la provincia aveva intenzione di realizzare su un tratto della vecchia ferrovia Treviso-Ostiglia una grande camionabile. Ci siamo costituiti in comitato perché l'idea di avere una nuova camionabile, che a nostro parere era inutile, ci sembrava veramente demenziale, considerando che c'è anche una legge regionale che impone che le ex ferrovie dismesse diventino piste ciclabili, percorsi ciclopedonali. Per cui la battaglia si è evoluta immediatamente a favore della costruzione di questa pista ciclabile. È stata un'opera di sensibilizzazione molto, molto importante. All'inizio nessuno credeva nella fattibilità di un progetto di questo tipo. Sono stati 8 anni di mobilitazione, di battaglie, di manifestazioni. E alla fine dobbiamo dire che ce l'abbiamo fatta. La provincia ha acquistato il sedime della ex ferrovia, il tratto padovano della ex ferrovia, e ha messo in progetto la realizzazione di un percorso ciclabile che da Piombino Dese arriva fino a Campodoro, per 34 chilometri di pista, che si raccordano con i 12 chilometri già esistenti nella zona del Trevigiano, nel Parco del Sile. Quindi è già possibile percorrere da Treviso, arrivare fino in questo momento ad Arsego e poi fino alla confine della provincia di Padova a Campodoro, sul tracciato di questa ferrovia. Che possiamo dire che cos'era esattamente, quando era nata? Allora, la ferrovia è nata all'inizio del Novecento. Il progetto risale alla fine dell'Ottocento e uno dei promotori del progetto era proprio Leone Wallenberg di Loreggia, che è stato poi il fondatore delle casse rurali, e era vista come un percorso strategico per portare mezzi e uomini al confine con l'Austria. Nonostante allora l'Italia fosse già alleata con l'Austria, sentiva l'esigenza di creare una ferrovia militare per proteggere i confini da quelli che erano comunque in quel momento degli alleati. Il progetto è andato abbastanza per le lunghe ed è stato realizzato solo all'inizio del Novecento, dagli anni 20 in poi. È servita come ferrovia militare per trasportare materiale bellico verso l'est ed è servita poi soprattutto sia durante la ritirata per trasportare gli ebrei dai campi di concentramento che c'erano, dai campi di raccolta che c'erano nel nord Italia, per portarli o attraverso il Brennero o attraverso Tarvisio nei campi di lavoro, cosiddetti campi di lavoro in Germania. Quindi ha avuto anche questo spiacevole ruolo. Durante la guerra è stata bombardata continuamente, tanto è vero che subito dopo la guerra è stata abbandonata perché i costi per la sua ricostruzione sarebbero stati notevoli, e comunque poi parliamo sempre di una ferrovia militare, quindi non destinata a usi civili, benché su alcuni tratti nel Veronese sia stata usata anche come trasporto civile fino agli anni 90. Ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. Torniamo in linea con la trasmissione del quadrifoglio. Oggi stiamo parlando della pista ciclopedonale Ostiglia, Treviso-Ostiglia. Ne stiamo parlando con il coordinatore del comitato Ostiglia Ciclabile, Giuseppe Terralavoro. Abbiamo visto un po' la storia di questa ferrovia. A che punto sono attualmente i lavori? Quali sono i prossimi passi per la realizzazione di questa pista ciclabile e per la sua valorizzazione? Beh, adesso i lavori per quanto riguarda il tratto padovano possiamo dire che sono a buon punto. È stato realizzato tutto il tratto che da Piombino Dese arriva fino a San Giorgio delle Pertiche, in località Arsego. Sono già iniziati i lavori di continuazione da Arsego fino a Campodoro. Il primo tratto è stato inaugurato il 20 ottobre scorso, il secondo tratto si presuppone possa essere intorno all'estate del prossimo anno. E quindi il percorso sarà completato interamente. Una cosa che ha suscitato molto dibattito è stata la scelta di realizzarlo, di realizzare un fondo con l'asfalto e non in ghiaino o in terra battuta, che sembrava fosse la soluzione più ecologica. Noi ci siamo battuti per l'asfalto perché l'asfalto permette la fruibilità della pista anche alle persone disabili, persone in carrozzina, persone con difficoltà motorie come gli anziani, famiglie con i bambini in carrozzina. E quindi un'opera di questo tipo pensiamo debba essere fruibile da tutti e non solamente da pochi fortunati. E poi c'è da aggiungere che tutti i grossi percorsi europei sono in asfalto. Pedalare sul ghiaino dovendo guardare le buche e non il panorama non è molto piacevole. E poi c'è da aggiungere anche un fattore economico. Alla fine l'asfalto diventa più economico del ghiaino, perché una volta realizzato ha dei costi di manutenzione praticamente inesistenti. Il ghiaino invece deve essere mantenuto continuamente. Ecco, questa pista, che era attesa anche dal territorio, però non deve rimanere una volta realizzata, deve essere anche utilizzata, deve diventare un fattore di promozionale. Come si sta pensando di lavorare in questo senso? Per il turismo, pensiamo, per l'economia anche del territorio, potrebbe avere un suo ruolo? Beh, certamente la valenza turistica e culturale di un percorso di questo tipo è notevole. È chiaro che non basta aver fatto il nastro d'asfalto. Difatti noi come comitato continueremo a batterci e continuare la nostra battaglia per la sua valorizzazione. Deve essere valorizzata, devono essere rimesse a posto le stazioni. C'è bisogno di un piano turistico complessivo, in modo che possa diventare appetibile e sia conosciuta dalle persone che fanno cicloturismo. Purtroppo in questo momento né la provincia né i comuni hanno intrapreso un'azione di promozione e valorizzazione seria del percorso dello Stiglia. Molto probabilmente si immagina che aver fatto il nastro d'asfalto poi le cose vengono da sé. Purtroppo le cose non verranno da sé, bisogna avere la capacità di costruire e di programmare il futuro di un'opera importante come lo Stiglia, perché bisogna rendersi conto che non è solamente un percorso ciclabile, ha un'importanza culturale enorme, attraversa tutta la zona delle ville venete a nord di Padova, attraversa la centuriazione romana con il museo di Borgorico, quindi con tutte le opere che sono state fatte per il museo da Aldo Rossi, che è stato uno dei grandi architetti del Novecento italiano e non solo, e che era di Borgorico. Si arriva a Piazzola con Villa Camerini, c'è il santuario di Tessara, quindi ci sono delle valenze culturali enormi. Oltre all'importanza culturale in sé del manufatto Ostiglia, è un manufatto di archeologia industriale unico, probabilmente fosse l'unico in Italia. Nonostante fosse una ferrovia militare, è stata fatta con un dispendio di energie spaventoso. Solo nel tratto padovano basta pensarci che sono più di 100 ponti. Ci sono tutte le infrastrutture per il deflusso delle acque, in modo che la ferrovia potesse funzionare anche durante le esondazioni del Brenta, che sono veramente di notevole interesse architettonico. C'è il discorso della storia, come dicevamo, è servito per la deportazione degli ebrei in Germania. C'è il discorso affettivo delle popolazioni che hanno subito i bombardamenti e che hanno sempre amato questo pezzo di strada. C'è discorso più complessivo. Il momento in cui anche le province di Verona e Vicenza decideranno di fare il loro dovere, di recepire quello che la gente chiede, ci sarà un percorso che permetterà di andare in bicicletta da Trevisa a Ostiglia. Ostiglia è sul Po, come si sa. Lì si può imbarcare, percorrere tutta la laguna di Venezia, risalire poi il Sile e ritornare a Treviso. È un circuito che non ha bisogno di nessuna giustificazione per capirne la bellezza e la valenza culturale che ha. Bene, e su questa idea, su questo sogno, che chissà forse un giorno si può realizzare, ringraziamo Giuseppe Terralavoro. Io vi ringrazio e saluto gli ascoltatori. Prima di chiudere la trasmissione di questa settimana passiamo ad alcune veloci notizie. Mercoledì 14 novembre a Monselice, in provincia di Padova, nella biblioteca del Castello, si parlerà di mercato dei contadini. Non un semplice mercato, ma una risorsa per il territorio. Verranno presentate diverse esperienze di mercati contadini in Italia e si parlerà anche di sinergie tra settore primario e turismo. Sarà lanciato infatti nell'occasione il progetto di cooperazione tra Gal Veneti Open Market per la valorizzazione turistica dei mercati locali. Informazioni per partecipare, previa prenotazione obbligatoria, sul sito www.venetoagricoltura.org. È ormai tempo di radicchio nel Trevigiano, un prodotto che è divenuto di punta per l'agricoltura veneta e che in 10 anni ha visto la produzione più che raddoppiata. La raccolta è passata infatti da 48.000 a ben 103.000 quintali nel 2011. Nel Trevigiano gli ettari radicchio nel 2000 erano 704, oggi superano i 1.150. Per promuovere la conoscenza e il consumo del radicchio, principalmente tardivo di Treviso e variegato di Castelfranco Veneto, tornano anche quest'anno, dal 19 novembre, le settimane del radicchio, proposte a turno da molti ristoranti della provincia trevigiana. Informazioni sul sito www.ristorantideradicchio.it. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima con la trasmissione del Quadrifoglio e vi ricordiamo che potete scaricare questa e le precedenti trasmissioni dal sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.